Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt. Avete presente il pellet? Parliamo di quei piccoli cilindri di legno pressato che si bruciano nelle apposite stufe. Si tratta di un combustibile molto pregiato, caratterizzato da una capacità calorica elevata, quindi da una capacità di fornire molta energia, una ottima capacità di combustione e la quasi totale assenza di emissioni inquinanti. Le stufe più moderne poi consentono di programmare la combustione del pellet in modo molto sofisticato, più o meno con la stessa flessibilità di una caldaia a gas. C'è una condizione però che il pellet deve soddisfare per possedere tutte le qualità che abbiamo detto, e questa condizione è che l'umidità della biomassa da cui il pellet viene ricavato, quindi dal legno, sia ridotta al minimo, di solito intorno all'11-12%. Si tratta di un valore molto basso che determina un punto critico nei costi di produzione del pellet, perché l'acqua, per passare dallo stato liquido a quello di vapore, richiede molto calore. In gergo si parla di calore latente di evaporazione. Ebbene, alla facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze stanno lavorando su una tecnologia che potrebbe aggirare questo ostacolo. Ne parliamo con Federico Rotini, ricercatore presso l'Ateneo Fiorentino. Buonasera Rotini. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto un numero subito. Quanta acqua c'è dentro a un pezzo di legna verde? Non so se è il termine giusto. Sì, è il termine giusto. Direi circa il 50% in peso. Questo vuol dire che se noi prendiamo una tonnellata di legna verde appena tagliata dal bosco, noi abbiamo circa 500 kg di acqua e 500 kg di legna. E questo è il motivo per cui brucia malissimo la legna verde. Esattamente, diciamo. Perché praticamente nel processo di combustione parte dell'acqua evapora a scapito dell'energia termica prodotta dal processo stesso. Ecco, allora voi invece che cosa vi siete inventati? Ma noi ci siamo inventati un dispositivo alternativo, diciamo, alla essiccazione tradizionale fatta mediante riscaldamento. Mm-hmm. È praticamente un qualcosa che utilizza energia meccanica per triturare ad alta velocità la legna verde. Mm-hmm. Quindi immaginiamoci ad esempio un frullatore un po' particolare. Una specie di frullatore, va bene. Una specie di frullatore un po' particolare in cui, diciamo, la legna verde viene accelerata a altissima velocità e contestualmente viene triturata. Questo effetto produce anche un effetto essiccante, oltre a polverizzare la legna stessa. Quindi, diciamo, è un qualcosa che si adatta molto bene al processo, a quello che è il processo di produzione del pellet, ma anche in altri ambiti può essere adottato anche per produrre mangimi e quant'altro. Fondamentalmente è un, come dire, è un processo, sì, un po' simile a una specie di spremitura, cioè mi viene in mente questo. Esattamente, è simile a una spremitura. Immaginiamo di avere una spugna imbevuta d'acqua. Mm-hmm. Ok, un conto è ottenere un'essiccazione mettendola sul fornello del gas. Certo. Un conto è ottenere invece lo stesso effetto essiccante, però spremendo la spugna stessa, quindi semplicemente spremendola con la mano. Questo processo richiede un'energia decisamente più bassa rispetto a quella invece che è richiesta nel caso di un'essiccazione termica. Ecco, voi avete calcolato qual è l'impatto sulla filiera del pellet dell'adozione di una tecnologia di questo genere, impatto economico? Sì, sì, abbiamo fatto queste valutazioni ovviamente. Diciamo che l'impatto sull'intera filiera è valutabile in un 30% di riduzione dei costi di produzione del pellet. Mm. Ovviamente gran parte di questo impatto a livello funzionale si riflette, diciamo, sulla fase di essiccazione della materia prima che viene lavorata fondamentalmente. Perfetto. Ecco, immagino che questo problema, come dire, di triturare e essiccare la biomassa poi si presenti anche in altre circostanze. Avete individuato altre possibili applicazioni? In generale, in tutti quei contesti in cui la biomassa deve essere trasformata, sia che si voglia produrre biocombustibile solido, sia che si voglia produrre mangimi, ma anche altri tipi di biocombustibile, non solo solido, anche gassoso, immaginiamo, perché in quel caso lì la biomassa deve essere ridotta in pezzatura per far procedere il processo di fermentazione, fondamentalmente. In tutti questi processi qui, questo tipo di tecnologia, e in generale in tutti i processi in cui è coinvolta sia triturazione che essiccazione, questo tipo di tecnologia può avere un impatto non trascurabile in termini di costi di produzione. Ecco, voi siete a un buon punto, insomma, esiste già un prototipo funzionante, state cercando un partner industriale, l'avete trovato? Allora, dunque, sì, il prototipo è funzionante, noi ormai è un po' di tempo che lavoriamo in questo contesto, abbiamo messo a punto un primo prototipo, una prima macchina che ci è servita a fare alcuni test per verificare la bontà del principio fisico che adotta. Certo. Abbiamo avuto dei feedback molto positivi in questo senso. la macchina effettivamente produce gli effetti che ci aspettavamo in pratica, e ovviamente stiamo cercando con fatica di portare avanti lo sviluppo, quindi sì, siamo in cerca di partner industriali che sono interessati a poter investire, diciamo, in questo contesto. Va bene, insomma, lanciamo un appello, anche perché siamo in un paese in cui la meccanica di precisione, come dire, una conoscenza ben presente sul territorio. Va bene, grazie Rottini. Grazie a lei, grazie a lei. Mister Kilowatt si chiude qui, domani è la giornata del risparmio energetico, ma si aprono anche le Olimpiadi invernali a Vancouver. Allora noi mettiamo insieme tutto e andiamo a vedere che cosa si sta facendo per rendere più sostenibili le grandi manifestazioni sportive. Buona serata.